Buonasera, buonasera a tutte e a tutti, benvenute, benvenuti a Compost, la festa di Tabula Rasa, e una festa di una trasmissione di Radio Onda Rossa. Siamo qui anche per sostenere Radio Onda Rossa e Radio Abbonamento di Radio Onda Rossa. E Radio Onda Rossa si ascolta negli 87.9 e noi invece andiamo in onda tutti i giovedì in diretta dalle 8 alle 9 e mezza circa, più o meno, vero? Più o meno. E mi hanno messo a me a fare l'introduzione, in teoria questa si chiamava cazzeggio, sono la persona meno adatta a cazzeggiare, le persone adatte a cazzeggiare sono Vince. Quindi passo la parola a Vince prima poi di iniziare invece la presentazione, quella vera, quella bella. Vabbè, in realtà questo termine è veramente anche poco giusto rispetto a quello che deve essere l'idea di compost. Non so chi di voi è riuscito ad ascoltare la trasmissione ieri, immagino tutte quante, tutti quanti, quindi inutile che io sintetizzi nuovamente cosa significa compost. Allora, compost è un nome che ci è venuto cennato e poi di fatto ciascuno di noi ha dato una sua interpretazione. Allora, considerando che abbiamo un unico microfono che non dà quella dimensione della radio come avevamo un po' sognato, incomincerei a dire questo, che compost per me aveva tanti significati, significava trovare una situazione dove buttavamo dentro qualcosa che potesse essere rigenerante. Ora, mentre lo dicevo, mi rendevo conto che poteva anche essere offensivo nei confronti di Paola Soriga, che è la nostra prima ospite, o di Simone Nebbia, che sarà il nostro secondo ospite, o in realtà di Falena, che sarà il terzo appuntamento di oggi. Cioè, non consideriamo tutta questa gente, questi autori della monnezza, che poi riescono a dare nuovo concime, no. Però compost era questa idea che ci mettiamo dentro un po' tutto. Allora, noi siamo più o meno la redazione di Radio Onda Rossa con una serie di fuoriusciti in realtà molto integrati che stanno anche nelle retrovie e fanno finta adesso. Ringraziamo il balletto che abbiamo appunto. Sono il balletto. Ci inchiniamo davanti all'amato leader e balletto. Allora, come funziona Tabula Rasa? Tabula Rasa è una trasmissione che va avanti ormai da più di 10 anni, memoria storica, ci siamo, oltre 10 anni, quindi non c'è nessun anniversario da festeggiare, ma abbiamo sempre pensato che fosse un tentativo di essere anche molto onesti nei confronti cioè per parlare di libri, di letteratura e di editoria. Cioè da noi tendenzialmente invitiamo delle persone che un po' rientrano nel nostro modo di vedere il mondo, invitiamo delle persone che hanno una voce che spesso non viene ascoltata da quella che è la cultura mainstream e trattiamo anche temi che riguardano anche il mondo dell'editoria da un altro punto di vista. Sicuramente uno dei prossimi obiettivi sarà quello di parlare della logistica, ce lo dicevamo poco prima di sederci qua. Ci sono dei temi che spesso una forma anche di ipocrisia e di censura a livello mediatico impedisce che vengano fuori in maniere importanti. Invece sono temi che noi consideriamo molto importanti all'interno anche del non soltanto del mondo culturale, ma proprio del mondo economico, del mondo dei diritti. Oggi andiamo a fare un viaggio, direi, dentro il Novecento, e lo facciamo in maniera molto, molto differente. Appunto, non vorrei ripetere le cose che abbiamo già detto ieri in trasmissione, l'avete sentite tutti quanti, sono state cose quasi a memoria, le trasmissioni di ieri. Però la cosa che ci è capitata di dire ieri, abbiamo fatto un dialogo inizialmente io e Andrea sulla questione di questo nuovo libro di Paola Sori, che si chiama Michael Jackson, lo vedete qua scritto come si legge, Michael Jackson con l'accento, era il commento, mi sembra acuto e critico, che era venuto fuori, che Paola Soriga ha preso una botta in testa. Quindi questa è la definizione tecnica del libro di Paola Soriga. Perché? Perché Paola esordisce tanto tempo fa, ormai nel 2012, con un libro che si chiama Dove finisce Roma, e che parla della Roma della Resistenza, parla del 44, parla di Centocelle, parla di come una staffetta partigiana, Ida, viva quella stagione di resistenza. Dopodiché fa un altro libro, ricordami il titolo, Paola? La stagione che verrà, che è una storia di tre amici, io vado a memoria, li ho letti tutti, quindi sono abbastanza preparato, su Paola Soriga, ed erano libri di grande profondità, di grande intensità, ma libri incredibilmente seri. E così chiudiamo il cerchio dicendo che questo è un libro, poi Paolo ha scritto anche per ragazzi un libro per la terza che si chiama La guerra di Martina, non che ha fatto anche un intervento con una roba che hanno dato dei soldi alla Sardegna che si chiama Sei per la Sardegna, ma sono tutte robe molto molto serie. E a sto giro Paola Sorica botta in testa e fa una cosa che fa ridere. Cioè, per una volta capiamo che non è quella persona noiosa che abbiamo sempre pensato, no, fa proprio ridere. E quindi scrive un libro che ha come protagonista Remigia Porcu, che però viene soprannominata Michael Jackson. Paola, per chi non è così acuto, perché viene soprannominata Michael Jackson? Vabbè, allora intanto vorrei dire che quando ieri ho sentito questa cosa alla radio in cui Vince diceva della botta in testa ho riso veramente molto, ma un po' è vero, adesso non so se tu ti ricordi, ma sono stati molti anni in cui noi facevamo delle serate di reading, di letture a San Lorenzo, all'inizio in un locale che non esiste più che si chiamava Il Simposio, poi le abbiamo fatte anche in altri locali vari, e il tono... C'era mio fratello che si chiama Flavio Sorica, che è anche lui uno scrittore che era sempre il centro, diciamo, di queste serate, e il tono era sempre ironico e leggero, tranne quando arrivavo io e a volte anche Vince, che eravamo considerati l'angolo del piombo, questa era la definizione corretta. I menagrami proprio, vuol dire la sfiga. Quelli che raccontano le cose drammatiche. E, vabbè, a parte questo, il titolo... Mi hai chiesto perché si chiama Michael Jackson. Perché si chiama Michael Jackson? Perché, allora, lei, la protagonista di questo libro, ha un nome che non le piace. Si chiama Remigia, perché il nonno si chiamava Remigio, che è un nome, almeno in Sardegna, per quegli anni, un nome antico, però abbastanza diffuso. Già al maschile, insomma, non è particolarmente bello come nome, almeno non suona più molto bello alle nostre orecchie. Al femminile ancora meno, quindi c'è questo rapporto con il suo nome di nascita. E lei nasce già con molti capelli, come succede, io sono nata già con molti capelli, però erano lisci così come li vedete. Invece lei nasce con molti capelli molto ricci. Allora suo zio, uno zio giovane che fa un po' il musicista, non di professione ma per passione, e comunque ama molto la musica, appena la vede dice che somiglia a Michael Jackson, quindi le rimane un po' addosso questo soprannome, che poi nel corso della narrazione si evolverà, diciamo così, cioè c'è tutto un rapporto di lei con questi nomi che tra l'altro io non avevo previsto, nel senso che non avevo pensato che sarebbe stata una cosa così importante, invece poi lo è diventata mentre scrivevo, e quindi questa è la ragione narrativa. Il fatto che sia scritto in questo modo è per ricreare quel tipo di scrittura che c'è nel libro, che è una scrittura che tenta, quantomeno, di ricalcare l'oralità, e quindi lo rappresenta in questo modo. Allora, a parte che abbiamo anche qui con noi una diapositiva del cosa significa nasce con i capelli ricci e molto voluminosi. È vero. Non solo, in realtà, se mi altra. E comunque... C'è bullismo contro le ricce. No, la cosa che volevamo dire era anche questa, che effettivamente il libro di Paolo è molto divertente e già la citazione iniziale di Sergio Azzeni ci fa capire... C'è la citazione iniziale di Sergio Azzeni che dice, ora la vado un po' a memoria, dice appunto che la Sardegna andrebbe raccontata tutta, in tutti i suoi luoghi e anche in tutte le sue persone, quindi uno per uno, ogni luogo, ogni persona. E c'è tutto, in realtà c'è un grande almanacco di personaggi all'interno di questo libro, e rispetto a quello che dicevo prima, in maniera un po' faceta, però anche reale, anche sentita, Paola ce l'ha una sua verità e ce l'ha in questo conflitto fra una lingua divertente, una storia divertente e invece una volontà di raccontare il linguaggio della Sardegna. Cioè noi abbiamo una narrazione che corre, che diverte, che riusciamo a seguire, e ogni tanto abbiamo uno stacco dove la narratrice ci racconta cosa significa quel termine in sardo. Quindi è come se avessimo una voce che però poi viene... chiosata, viene spiegata, senza che però in questo modo si perda il ritmo della narrazione. Per tutti coloro che non conoscono gli anni 80 e gli anni 90, Michael Jackson è anche una possibilità di riavvicinarsi. Non ce li abbiamo, guarda, così a occhio. Allora, diciamo, per tutti voi giovani che siete qua davanti a me e che quindi non sapete assolutamente cosa sia gli anni 80 e gli anni 90, quindi avete tutta una serie di richiami a quello che è il pop più becero ed elegante degli anni 80 e 90. Becero. Cioè, quindi c'è tanto Eros Ramazzotti, cioè, che veramente viene c'è una sorta di epistemologia di Eros Ramazzotti, viene continuamente citato, e soprattutto c'è un momento focale con Sandra Milo. E io chiederei, ed è anche una sorta di turning point, anche un momento di passaggio del romanzo, perché a un certo punto la protagonista, Michael Jackson, che appunto in questa lingua musicale finalmente trova la sua strada nella musica, alla sua grande occasione. E cosa succede, Paola? Lo possiamo raccontare, che è proprio, diciamo, un terzo del libro. Sì, no, in realtà lei partecipa, c'era un programma, non so se quelli, i pochi di voi che ricordano gli anni 80 e 90 forse ricordano che c'era un programma che andava in onda sulla Rai che si chiamava Piccoli Fans, con la S, tra l'altro, perché erano anni in cui queste regole andavano un po' così. Era condotto da Sandra Milo ed era una specie di, insomma, come ce ne sono tanti ancora oggi, era un programma dove i bambini andavano a cantare e a esibirsi mentre cantavano. E lei in realtà fa una figura un po'... fa un po' una brutta figura, ecco. Ma fa un po' una brutta figura, tra l'altro, perché ci rimane male per delle incomprensioni linguistiche. Cioè, lei viene un po' presa in giro, quando è lì in diretta da Sandra Milo, dal pubblico e dalla stessa Sandra Milo, che tra l'altro io so, non è che parlo male di Sandra Milo, però comunque se non lo legge secondo me è meglio, perché è per il suo accento, per il suo modo di pronunciare le parole, quindi va nel panico e farà un'esibizione un po' così, insomma, un po' mediocre, mentre lei è una bambina che canta davvero molto bene, come succede se voi cercate anche soltanto su YouTube video di bambini di 5 anni che cantano, vedrete che ci sono delle robe sorprendenti, ecco. Però certamente lei da Sandra Milo fa un po' questa figura che rimarrà nella sua mente come il grande insuccesso, tanto che appunto poi negli anni successivi tenterà di rimediare un po' a questa situazione. Rispetto a quello che dicevi prima, poi ti ridò la parola. Sì, allora, nell'esergo c'è una frase di Sergio Azzeni che per me... Allora, Sergio Azzeni, magari non tutti lo conoscono, uno scrittore cagliaritano, molto bravo, molto importante, per me molto importante a livello personale, ma non soltanto, certamente ha avuto un'importanza non solo nella letteratura sarda ma anche in quella italiana. È autore di molti romanzi, molto diversi tra di loro, l'ultimo dei quali è un romanzo incompiuto che è stato pubblicato postumo, si chiama Bellas Mariposas, ed è un romanzo in cui lui usa proprio un linguaggio ironico e leggero per raccontare le vite di due ragazzine, una in particolare, che vivono in una periferia problematica cagliaritana. Sergio Azzeni ha avuto molti meriti, uno dei quali è stato quello di dare un'immagine della Sardegna per la prima volta diversa da quella a cui i classici scrittori sardi ci avevano abituato, e per classici scrittori sardi intendo ovviamente Grazia Deledda, Satta, Dessì, Il giorno del giudizio, eccetera, che era l'immagine di una Sardegna intanto di zone diverse, comunque una Sardegna molto austera, molto, in cui era molto importante in qualche modo il concetto di chiusura in quanto sintomo di purezza, di vera sardità. Sergio Azzeni è quello che ha dato voce alla Sardegna meticcia, che ha raccontato in modo positivo il fatto che ci siano dei luoghi dove invece le genti si sono mischiate tra loro. Quindi direi che questa è la prima cosa molto importante di Sergio Azzeni. E poi l'altra cosa per me è questa, cioè aver sperimentato anche dei registri diversi. Sergio Azzeni è morto giovane, aveva poco più di 40 anni, 43, 44, non ricordo. Tra l'altro in un modo veramente assurdo, cioè è stato portato via da un'onda mentre stava guardando il mare da uno scoglio. Una cosa veramente incredibile, tanto che a lungo si è addirittura speculato, forse esagerato, però sono state molte le versioni che circolavano intorno alla sua morte, che non fosse mai stato ritrovato il cadavere, che non fosse mai morto come Elvis Presley, quelle cose folli. E quindi, insomma, questa frase che Gallico, che Vincenzo citava prima, credo che la Sardegna vada raccontata tutta. Se avrò vita cercherò di raccontare tutti i paesi uno per uno e tutte le persone una per una. È una cosa che lui non è riuscito a fare, perché appunto se n'è andato molto presto. Però mi sembra che sia rimasta un po' come guanto da passare alle generazioni successive, almeno a me piace leggerla in questo modo. Però per concludere vorrei dirvi che questo esergo contiene due citazioni. Una è questa che vi ho appena letto di Sergio Azzeni e l'altra è la seguente: ma certi sogni sono come le stelle, irraggiungibili, però quanto è bello alzare gli occhi e vedere che sono sempre là. Ero Stramazzoni. Per concludere vorrei solo dire che la mia amica Elisa, che è lì, ieri mi ha scritto: non ci posso credere che sei riuscita a scrivere un romanzo infilandoci Nato ai bordi di periferia. Eppure l'ho fatto. Ed è proprio anche per garantirci questi fuori onda che volevo tracciarvi un minimo di mappa letteraria. Appunto Paolo l'ha accennato, effettivamente questo è un romanzo di grande oralità, è un romanzo che dicevamo sempre nella pluricitata puntata di ieri, affonda le sue radici nell'Emilia, quindi nell'Emilia di Gianni Celati, quindi in tutta la derivazione che poi ne viene fuori con Cavazzoni, con Cornia, con Nori, quindi è quel modo di scrivere là, che sembra quasi che te lo siano, che sia una nenia, che sia una musica quando te lo raccontano. E poi appunto un modo che invece la famiglia Soria, insomma, si è sviluppato, perché anche Flavio ha avuto per in alcuni suoi libri una sorta di cantilena ritmica. Quindi c'è tanta, c'è l'Emilia, c'è la Sardegna, c'è anche in Azzeni, c'era anche quel ritmo che riaffondava, in questo caso so di fare felice la mia amica Tiziana, affondava nelle origini di Roberto Bolaño, ecco. Prima di passare la parola ad Andrea, però, siccome noi l'abbiamo pensata come una cosa che fosse un festival radio, strizzo un po' l'occhiolino alla DJ Zen, come si fa in radio, e quindi adesso un po' un punto del cazzeggio, quindi se potete parlare tra di voi lo fate, e noi tra 2 minuti riprendiamo con le domande. Do la parola, no, il leader non vuole parlare, la motorite non parla, però per interposta persona pone una domanda alla nostra autrice. Se questa nenia rispecchia i canti o i balli sardi, per quella che abbiamo appena ascoltato. Non lo so, non... veramente non ci ho mai pensato a questa cosa. Però è molto interessante perché le canzoni sarde, non soltanto quelle tradizionali, dico, sia quelle religiose ma non soltanto, hanno in effetti una melodia che si ripete e che è sempre la stessa. Si chiamano Gocciusu. Non ci ho pensato, però potrebbe essere che in qualche modo abbiano influenzato. Sicuramente c'è molto, anche qui tornando a quello che dicevo prima, della tradizione letteraria sarda più nota. In realtà quella meno nota è quella in lingua sarda, di cui fanno parte per esempio le commedie. E le commedie campidanesi, che è la parte meridionale dell'isola, quella in cui io sono cresciuta e quella in cui ho ambientato questo libro, sono appunto delle commedie, quindi fanno ridere, sono, cioè l'ironia è una cosa molto presente e molto importante. Non solo, anche le poesie, la poesia sarda ha, sarda intendo proprio in lingua sarda ovviamente, ha una caratteristica che è quella di avere un'assoluta mancanza di confini tra la poesia colta e la poesia popolare, cioè spesso sono poesie d'autore che però poi vengono ripetute nei palchi delle feste, in mille situazioni diverse, per cui diventano popolari. Questa è una particolarità che persino Gianfranco Contini aveva notato e segnato come un'anomalia rispetto alla tradizione letteraria italiana. Scusate, ogni tanto emerge la parte nerd che è in me. Però insomma, quindi forse un po' queste due cose. Tra l'altro, anche qui, l'ironia, oltre a essere parte di tutta questa grande tradizione letteraria, che comunque io ho presente perché, come dicevo prima, essendo una tradizione anche popolare, è proprio quella che ascoltavi da bambino nei palchi, in mille situazioni, nella radio anche. Ma è anche una modalità che è proprio tipica del nostro modo di parlare. E a questo non solo sono arrivata io con i miei pensieri, ma è una cosa che è stata studiata dai linguisti, dagli antropologi, dagli studiosi. Cioè è un'oralità molto basata su una struttura grammaticale che è quella che si chiama antifrastica, cioè consiste nel dire una cosa affermando il suo contrario. Vediamo se riesco a fare un esempio. Per esempio, uno dice piccolina la fame per dire che ha molta fame. È un esempio molto banale, però è esattamente come noi costruiamo le nostre conversazioni e il nostro linguaggio. Quindi riportare questo tipo di strutture grammaticali nella voce di questa protagonista, chiaramente non è un caso, no? Ma è proprio il frutto. Tu hai parlato molto dell'Emilia. Ed è vero, io ho letto moltissimo gli autori che hai citato. Paolo Nori, tra l'altro, è uno che ha molto anche il lato ironico. Mi vengono in mente anche il Massimo Volume. Guarda, non hanno l'ironia, però certamente hanno il fatto dell'oralità. Non ho pensato razionalmente a queste cose mentre scrivevo, però evidentemente un po' dentro di me ci sono. Però appunto, anche rimanendo sulla Sardegna, ci sono degli autori. Tu prima hai parlato un po' di mio fratello come ritmo, ma non è solo il ritmo. Uno dei primi romanzi, che era Sardegna Blues, in realtà praticamente dopo Sergio Azzeni è stato il primo romanzo che usava l'ironia in un contesto come il nostro. Ma poi la letteratura, cioè i romanzi in cui l'ironia fa da filo conduttore sono molti. Stando in Sardegna mi viene in mente Milena Agus, che scrive dei libri completamente diversi, ma sono sempre pervasi da un'ironia molto sua, molto particolare. Ovviamente sul livello nazionale ancora di più, ma pensate anche al Lessico Familiare, un romanzo che è tutto intriso di ironia. C'è una cosa che ho già raccontato, ma è la prima volta che faccio una presentazione dal vivo, quindi mi sento libera di ridire le cose che ho detto online come se non le avessi mai dette. Joyce Lussu, che non so se avete mai sentito nominare, io ne parlo spesso quando posso, è stata una traduttrice, una scrittrice soprattutto di memorie, ma lei è una che ha fatto la resistenza, quindi ha scritto un libro molto importante in cui racconta la sua esperienza nella resistenza, ed è stata anche la moglie di Emilio Lussu, che non solo è stato un politico, ma è stato anche un grande scrittore che in Sardegna ha un'importanza enorme per diverse ragioni. Joyce Lussu viene da una famiglia molto mista a livello di provenienza, sua madre era inglese, suo padre era marchigiano, ha vissuto prima in Italia, poi in Svizzera, insomma una cultura e anche delle esperienze molto internazionali, molto europee. Si innamora di questo sardo di Armungia, piccolo paese nel centro della Sardegna, e racconterà in diverse occasioni le volte in cui lei è entrata in contatto con questa cultura così diversa dalla sua. E le prime volte stiamo parlando degli anni 40, cioè a guerra finita, insomma, 45 in poi. E una cosa che racconta, che dice Joyce Lussu a un certo punto, è che secondo lei l'ironia dei sardi è non solo particolarmente spiccata e importante, ma è simile allo humor inglese. Racconta un episodio in cui lei entra in una casa di amici, insomma di conoscenze di paese, c'è un neonato e lei chiede alla donna, dice alla donna che è accanto al neonato: bello questo bambino, è figlio suo? E la signora risponde: in domme nasciu, cioè a casa è nato. Che obiettivamente, ma che risposta è? Cioè, nel senso, o è sì o no, però appunto lei lo prende giustamente perché obiettivamente è così, cioè è il nostro modo di essere ironici, che chiaramente non è un modo teatrale, non è una cosa che ti fa spaccare in due dalle risate, però sono sempre risposte di questo tipo, che tra l'altro presuppongono un interlocutore che capisce lo stesso tipo di ironia, perché se no non hanno senso, perché se io dico piccolina la fame a uno che non, appunto, non ha quel tipo di linguaggio, non capisce cosa sto dicendo. Sono andata un po' fuori tema forse, però. No, no, per niente. Tra l'altro è interessante che effettivamente vedevo che una parte ha riso e una parte no. Quindi... Giusto. Aspetta, posso dire un'altra cosa? Certo. A questo proposito, è uscita una bella recensione la settimana scorsa sulla lettura del Corriere della Sera. Era una recensione molto bella di Ida Bozzi, solo che a un certo punto sul finale c'era proprio un caso di incomprensione linguistica, perché appunto io metto molto sardo, spiego usando delle tecniche narrative, tento di spiegare anche al lettore non sardo tutto questo, però evidentemente non tutto torna fino alla fine. Lei a un certo punto dice che la nonna è un personaggio che lei ha visto come molto dolce e molto delicato, tanto che è una donna che non risponde mai no, ma risponde non credo, come se fosse una forma più gentile di dire no. Ma nella mia testa era l'esatto contrario, cioè è mia nonna che dice no creu, non è la stessa, cioè è peggio di dire no. Quindi insomma sì, ci sono un po' di scarti. Ovviamente mi hai bruciato adesso l'incit, che era, voglio dire, no, faccio una parte che riso, una parte no, e voglio dire che noi storicamente a tabula rasa ci dividiamo fra quelli che preparano le interviste e quelli che non le preparano. Mentre diciamo la vecchia scuola, mi sento di dire, non si è mai palesata con degli appunti, la nuova scuola, che per fortuna sta rinvigorendo questa trasmissione, la rende molto più frizzante e non quella cosa noiosa che abbiamo portato avanti per anni io e te, e qua presente, finalmente posso cedere il microfono all'uomo col taccuino. Che brutta persona, veramente bruttissima. No, allora, io ho letto il libro di Paola e appena l'ho comprato ho mandato una foto a Paola e gli ho fatto vedere che ce l'avevo e che vicino avevo comprato un altro libro, sempre ovviamente di Sergio Azzelli. Non avevo aperto il libro, quindi non sapevo che c'era una citazione dentro. Era Racconti con colonna sonora. Del maestrale, l'edizione del maestrale, e leggendo il libro era proprio quello lì. E poi Paola mi dice: allora adesso voglio vedere quanto Azzelli ci vedi dentro, una cosa del genere mi hai scritto. La sfida. Esatto, io non sono uno studioso d'azzeni, però secondo me ci sono alcune cose che ci si avvicinano, prima di tutto per l'oralità. Nel momento in cui Vince dice che c'è l'Emilia che citavi te con vari celati, nori, eccetera, secondo me invece c'è molto il figlio di Bakunin, che è praticamente tutto un romanzo molto, solo orale praticamente, sono solo interviste per chi avesse avuto il piacere di leggerlo, edizioni Silverio. E poi però ce ne sono anche tanti altri, per esempio il cognome di Remigia è il cane, il demonio è un cane bianco, che inizia con la neve, e il romanzo inizia con una nevicata perché Remigia nasce in un giorno di neve, e il racconto in questo caso di Sergio Azzeni inizia con la neve e il protagonista è Papale Porco, quindi anche in quello... Perfetto, quindi non ci ho preso per niente. No, evidentemente più di me. Può darsi aveva sedimentato, non lo so. E, così come, insomma, ci sono tanti altri riferimenti che secondo me ci si avvicinano, però in particolare il come tratti la lingua, il sardo in particolare, ci sono dei riferimenti che ricordano per esempio un'amica a Babele. E anche quello è un altro racconto sempre di Azzeni, in cui lui dice, proprio in quel pezzo lì, in quel racconto lì, dice abbiamo ogni parola è un mistero e ogni parola racconta un sacco di cose, però la differenza è che quello che dice la radio, la parola che dice la radio è diversa da quella che dice mio padre, che è la stessa cosa che dice magari la maestra ma usando un'altra parola, che è diversa da quella che dice il lattaio. E in pratica è quello che ho ritrovato più o meno nel romanzo. Ma al di là dei riferimenti ad Azzeni, che magari, insomma, poi dopo c'è pure Paola che ha scritto un libro e secondo me era nel solco di quello che dicevi tu all'inizio, cioè raccontare paese per paese. Io mi auguro che te racconterai famiglia per famiglia a questo punto, perché è un romanzo che racconta benissimo una famiglia. Ma al di là di questo, una cosa che mi ha colpito, e quindi al di là della lingua, è il fatto che c'è una cosa che io non so quanto quelli di adesso possano capire perfettamente quello che succedeva all'epoca, perché quando tu fai riferimento alla fruizione della televisione, dei programmi televisivi, quindi a Beverly Hills, Super Classifica Show, tutti gli altri personaggi, che Hulk Hogan, erano cose che succedevano e tutti quanti i bambini dell'epoca, e quindi anche io, insomma, chi ha vissuto negli anni 80, vedevano tutti contemporaneamente e il giorno dopo si confrontavano su quello che avevano visto in quel momento, perché la fruizione permetteva quello. La cosa che mi ha interessato più di tutti era che il grande insuccesso o il grande successo di Remigia, a seconda di come continua il romanzo, è decretato dal fatto che tutti stanno guardando contemporaneamente quella cosa. La cosa che mi ha incuriosito è chissà adesso come sarebbe stata, visto che adesso i ragazzi, ma anche noi, non abbiamo la contemporaneità nel leggere quella cosa lì o nel vedere lo stesso spettacolo, perché Netflix, faccio un esempio, o altre piattaforme non ci permettono di vedere uno spettacolo quasi tutto in contemporanea, penso che sia difficile, insomma. Quindi una cosa che volevo sapere era... Oggi Remigia, come il grande insuccesso di Remigia, se sarebbe stato così visto da tutti, e quindi la grande difficoltà di Remigia poi di tornare a casa, e come sarebbe cambiata probabilmente con le tecnologie di oggi e quindi con la fruizione che abbiamo oggi rispetto a bambini che vanno in televisione e che fanno una figuraccia. Sì, questa è una cosa che è cambiata profondamente proprio, cioè... è raccontato in questo modo perché io, allora, ho ambientato questo romanzo negli anni 80 e 90 in un modo molto naturale, nel senso che sono gli anni in cui sono cresciuta io e la narrazione è finita lì. Tra l'altro io il primo romanzo, come diceva prima Vincenzo, è ambientato durante la Resistenza, addirittura il secondo è ambientato nel primo decennio degli anni 2000. Questo sono quegli anni lì, sono gli anni in cui io sono cresciuta, però chiaramente oltre a questo sono anche degli anni veramente molto di passaggio, in cui che hanno segnato un cambiamento da vari punti di vista. Ora la televisione è soltanto una minima parte di questo, però è chiaro che è stato importante, tra l'altro era un cambiamento che è avvenuto proprio con noi, nel senso che noi siamo stati la prima generazione ad avere un palinsesto che durasse tutto il giorno, con trasmissioni continue, sono arrivate le televisioni commerciali, è iniziata la concorrenza anche con la Rai, e c'era proprio quella cosa dell'attesa, il martedì sera, il giovedì sera. Adesso non c'è più, c'è la TV che guardi quando vuoi, ci sono i programmi quando vuoi. Però forse un po' continuiamo a farlo, non so se continuiamo a farlo noi come generazione per abitudine o se lo fanno anche i ragazzi più giovani, ma se c'è veramente un evento a livello televisivo non lo guardiamo magari tutti nello stesso momento e nella stessa sera come prima, però più o meno nello stesso periodo sì, quando ci sono delle serie su Netflix di cui tutti parlano, ce li andiamo a guardare più o meno tutti e stiamo parlando della stessa cosa. Quando ci sono anche delle cose televisive, magari, adesso mi viene in mente una cosa, io lavoro da un po' di anni ai social della Rai, e 4 anni fa, se non sbaglio, Rai 2 aveva iniziato una trasmissione che si chiama Il Collegio, ancora esiste, ma la prima edizione in particolare era stata una cosa molto forte, perché appunto aveva preso i ragazzini, l'avevano guardato moltissimo ed erano anni che i ragazzini non guardavano la televisione in quel modo, l'hanno guardato su RaiPlay, non l'hanno guardato mentre andava in onda, però più o meno l'hanno guardato appunto non la stessa sera ma più o meno nello stesso periodo. Però sì, certamente questo è un cambio, così come è un cambio la fruizione della musica. Parlo di anni in cui per vedere un videoclip che ti interessava dovevi stare incollato ad aspettare che forse magari avresti avuto la fortuna di guardarlo. Sono anni in cui ti registravi i concerti alla radio con la musicassetta, cioè anche lì era lontanissimo l'idea, no? Che ho voglia di ascoltare questa canzone, l'ascolto, era un concetto completamente diverso e lontano. E ovviamente per chi cresceva in ambienti più popolari, meno colti, quindi con meno possibilità di una cultura e di un'educazione musicale, artistica, voleva dire la musica mainstream a tutti i livelli, che passava dal Festival di Sanremo al Festival Bar. Se non avevi qualcuno che ti indirizzava in altre direzioni, era veramente molto difficile incontrare qualcos'altro. Mentre oggi con le piattaforme è chiaro che un 14enne, anche se non ha altri riferimenti, è molto più facile che riesca a intercettare anche degli stili e delle correnti diverse. In quegli anni lo era molto meno, per cui insomma il pop aveva un significato diverso, così come l'ha avuto, non arriva il libro a raccontarlo, però l'incontro con altri tipi di musica, con il rock, con tante altre cose che è avvenuto un po' dopo, probabilmente ha avuto una forza molto più dirompente rispetto a quella che può avere un ragazzo di oggi. Devo fare la cattiva, mi dispiace, ma siamo, dato che siamo una trasmissione radiofonica, cerchiamo di mantenere Giusto. Il ritmo della radio, e quindi sono quella cattiva che deve dire che il nostro tempo è finito, però loro adesso si sfogheranno con Simone Nebbia, quindi però prima di passare a Simone volevo ovviamente dirvi che insomma Michael Jackson è qui, è in libreria e anche qui. E che è un libro, abbiamo già detto molto, però quello che voglio dirvi è che è un libro dove incontrate veramente un sacco di cose, è un libro che racconta un sacco di prime volte, perché appunto è il racconto di un'infanzia che finisce, perché poi appunto questa ragazzina andrà alle superiori e noi un po' l'abbandoniamo lì, però prima che va alle superiori succedono un sacco di cose, in questi anni muore Freddie Mercury, muore Kurt Cobain, è praticamente veramente la nostra infanzia, io mi ci sono ritrovata tantissimo, non solo per i capelli ma anche per un sacco di altre cose, quindi veramente leggetelo perché è molto divertente e soprattutto perché Paola Saviga è una grande scrittrice, quindi siamo contente di averla anche tra noi. Ooh, baby, space, but not a stranger. I'm an ocean, Africa. Allora, Rosso Antico è uscito durante febbraio? Gennaio del 2021 per Perrone Editore, ed è un romanzo, almeno da quello che penso di aver capito, è un romanzo che parla della storia di un professore cresciuto nel 68 che a un certo punto, in un giorno solo, in un sabato, quindi la storia racconta di tutto il suo giorno, di un sabato, a un certo punto si sveglia e praticamente gli cambia la vita, o comunque forse la vita già gli è cambiata prima, ma questo lo scopriamo mentre leggiamo il romanzo. Ci sono in realtà dentro due romanzi, c'è un romanzo, la storia di questo professore, professor Salomè, e contemporaneamente viene inframmezzata da un romanzo epistolare di uno studente che scrive a un diario e poi scrive altre lettere, non vi anticipo niente. Il romanzo in realtà è a me la cosa in assoluto che mi ha colpito, oltre la trama ovviamente, che non vi anticipo più di tanto, è la lingua con la quale Simone ha raccontato la vicenda del professor Salomè e della sua sconfitta. Devo avere la lingua. Sì, esatto, ti fa vedere la lingua. È la lingua con la quale Simone descrive la storia di questo professore e di quello che gli succede, dei suoi conflitti, soprattutto interiori e culturali, rispetto a quello che è successo tra il 68 e oggi, e di quello che è stato tutto quel movimento di lotta che ci ha portato fino ad oggi, e poi quello che sta succedendo in questo momento visto da uno studente. Questo più o meno dovrebbe essere la trama. A me una cosa in assoluto però che mi ha colpito e che chiedo subito a Simone, perché comunque i tempi li abbiamo ristretti moltissimo, sono riguardanti quello che a un certo punto il professor Salomè si ritrova davanti il portiere del suo palazzo, che a un certo punto gli dice che tutto quello che hanno fatto durante il 68, tutto quello che è stata la lotta, poteva essere perfettamente rappresentata con un videogioco, perché tutto quello che poi è seguito teoricamente era relativo a quello che potrebbe essere rappresentato appunto con un videogioco. La stessa cosa io però l'ho ritrovata poi, non detta dal portinaio del palazzo del professor Salomè, come è raccontato nel romanzo di Simone, ma da un intellettuale che si chiama Alessandro Baricco, e che ha scritto, ha rilasciato un'intervista qualche settimana fa, penso 2 settimane fa, durante un Tech Talk. Baricco, che oltre a essere uno scrittore, lo so, sono il suo preferito, poi è preferito, esatto. Oltre a essere però uno scrittore, diceva che il problema dell'insegnamento, in questo caso della DAD, poteva essere risolta appunto fatalità da un videogioco. Cioè, secondo lui, l'istruzione e l'insegnamento potrebbe essere un qualcosa ipotizzabile anche come finalità. Tutto quello che è il percorso formativo di una persona attraverso un videogioco. Ora, Simone, oltre a essere uno scrittore, un cantautore, un critico teatrale e un discreto giocatore di calcetto, soprattutto un discreto giocatore di calcetto, gioca solo col sinistro, tra l'altro, per fare riferimenti al 68, oltre a essere tutto questo è pure un insegnante, e chi meglio di lui ci può raccontare sia quello che è successo con la DAD, visto che Baricco in quel caso la risolveva con un videogioco, sia appunto un'uscita del genere che sembra aver ripreso quello che hai scritto te. Ora non so se t'ha letto, però più o meno. Oh, intanto vabbè, buonasera a tutti, chi sono l'ha già detto lui, vi saluto perché insomma è una cosa che non avevo ancora fatto. E ci tengo però, intanto Andrea ha detto delle cose molto belle e ne ha dette tante. Io lo contraddico immediatamente, perché questo romanzo in realtà è non è un romanzo che parla del 68, non è un romanzo che parla della lotta politica di allora, è un romanzo di un'assenza, cioè parla di tutto quello che non c'è o che non c'è più. è quasi pensato un po' al contrario. La mia idea era quella di cercare proprio di indagare dove si è nascosto un certo spirito che ha portato le generazioni precedenti rispetto alla mia, per esempio, quello spirito che ha portato a lottare attraverso una cosa molto, molto chiara, molto evidente, e che si chiama politica, che noi abbiamo demonizzato. Cioè, la nostra epoca ha un po' preso questa parola, l'ha fatta diventare un po' una sorta di talk show televisivo. È una parola che ha cambiato un po' di senso, ha cambiato un po' di significato. E è interessante perché in realtà quello che diceva Andrea rispetto a un piccolo episodio che casualmente ricorda questa cosa di Baricco, ma io non lo so, cioè non credo Baricco abbia letto questa cosa, cioè che il portiere del palazzo del professor Salomè a un certo punto ipotizza l'idea che la lotta di classe possa essere una sorta di gioco per la PlayStation. Lui lo fa chiaramente con ironia e dicendo un po' una cosa, un pensiero così che poi dimentica subito. Il problema è che Baricco l'ha detto davvero, questo è il vero dramma, diciamo, della situazione. E a riguardo però, Baricco dice un po' di cose assurde in quell'intervento, sia il pensiero che non debbano esistere più le materie, che di per sé è un pensiero corretto da insegnante, lo dico. È corretto, però riguarda l'insegnante stesso, è l'insegnante che deve spiegare che la divisione convenzionale in materie riguarda l'orario degli insegnanti, banalmente, che devono essere pagati uno per matematica e l'altro per italiano, e quindi Baricco non so questa come la risolve, e dall'altro lato anche il fatto che non è parcellizzazione del sapere, è semplicemente quello di cui hanno bisogno i ragazzi a scuola, cioè del fatto che sia disciplinato il loro sapere, quando poi sta all'insegnante cercare di costruire un sistema per cui ci sia osmosi tra un insegnamento e l'altro. Ma questo appunto è un altro sistema. Però andrei un po' oltre rispetto a quello che fa Baricco, e nel mio intervento io direi quasi di di cambiare un po' le materie scolastiche, aggiungere la materia politica. Non so se sei d'accordo, ma io la metterei tra le materie scolastiche. Allora, io insegno nella scuola media. Recentemente ho cercato di spiegare, sto in seconda media, e ho iniziato a parlare di illuminismo, di rivoluzione francese, la rivoluzione industriale, e quindi ho detto loro, vabbè, cominciamo pure a parlare di politica. Ho cercato di spiegare loro questa cosa. Allora, voi siete nella classe, siete la seconda B, mettiamo, no? Siete la seconda B, e tra di voi a un certo punto c'è uno che dice, ma a me mi pare che queste sedie sono diventate troppo piccole, giusto? Però se lo dice uno, così poi gli altri così lo ascoltano, però ne danno peso, no? Se piano piano quello che ha detto che la sedia è troppo piccola incomincia a parlare con gli altri e fa un po' di proselitismo, e effettivamente tutti gli altri si rendono conto che queste sedie sono diventate piccole, allora tra di loro, piano piano, iniziano a discutere del problema delle sedie piccole e vengono dal potere. Il potere so io, l'insegnante. E iniziano chiedendo di sostituire le sedie troppo piccole. Quello che i ragazzi hanno iniziato a fare, in un contesto di quel tipo, è esattamente esperienza politica. Quello che dovremmo rivendicare, già dai banchi di scuola, è che combattere, lottare per delle idee, lottare per rivendicare un diritto ad avere qualcosa di migliore rispetto a quello che viene concesso, perché è qualcosa che naturalmente deve migliorare la condizione in cui i ragazzi, in quel caso, studiano a scuola, ma in cui i ragazzi vivono a livello generale, ecco, quel tipo di attività deve essere rivendicata, secondo me, fin dai banchi di scuola. Quindi metterei la materia politica. Non so se approvare la mozione o meno, però insomma. Lascio la parola a Vince se anche lui voleva parlare con Simone. A parte che avete visto che la seconda B, il ragazzo della seconda B ha fatto arrivare la luce, senza che c'è bisogno del potere, ogni tanto direttamente si riesce a ottenere ancora più dal basso. Non era il bidello, no, ci suggerisco. No, il ragazzo della seconda B. Vorrei tornare al romanzo di Simone, che si chiama Rosso Antico, e che effettivamente, Simone dicevi, è un romanzo che parla di un'assenza ed è anche un'assenza di tempo fra quello che è la prima narrazione, che è la narrazione del professor Salomè, di Luca Salomè, e poi c'è tutto un momento che manca fino alla narrazione che dello studente. Lo studente tra l'altro scrive in questa prima persona, una prima persona che comprende anche un elevato livello letterario, non soltanto nella sua formulazione, ma anche rispetto alle conoscenze dello studente stesso. Discutevamo con Andrea proprio ieri del fatto di come anche la letteratura possa rappresentare una forma di resistenza. C'è un passaggio in cui tu racconti come durante una manifestazione ci sia la volontà di difendersi attraverso Proust, attraverso Joyce, però appunto arriviamo al book block. Ti volevo chiedere se nei panni dello studente riesco a capire che è attinto un po' a quella che è stata anche la tua esperienza con l'onda, volevo capire appunto come vedevi quel 68 che tu racconti essere appunto non un romanzo sul 68, quindi innanzitutto qual era la tua forma di sguardo, cioè io confesso di aver identificato te più nello studente che scrive il diario, ecco. E quel rosso, volevo chiederti appunto, quel rosso antico quanto è ancora rosso nello sguardo di quello studente? Allora, c'è da fare un discorso di genesi del romanzo. Il romanzo nasce nel 2008, d'estate, quando io, da studente universitario di lettere della Sapienza a Roma, frequentavo i miei professori universitari, che erano quelli che avevano fatto il 68 e vivevano da pensionati, con un contratto che veniva poi replicato anno per anno all'interno dei corridoi della Sapienza, ed era una cosa che mi dava molto molto fastidio, perché li vedevo addormentati, non era percepibile il loro intervento nella società durante tutti quegli anni. Infatti il romanzo che poi inizio a scrivere in quel momento lì racconta esattamente quel tipo di esperienza, cioè io attraverso l'osservazione di 68enni che erano rimasti indietro nel tempo, ho iniziato a cercare di capire quella confusione, da che cosa fosse stata prodotta. E quindi viene fuori questo personaggio di Luca Salomè, che è un po' la summa di ognuno di loro che mi stavano attorno e di cui non farò i nomi, che dovendo scrivere un libro definitivo sul 68, lui che ne è stato in qualche modo, no, lo studente rivoluzionario, ideatore, tutti leggevano i suoi articoli in quel periodo, un po' come tanti insomma che conosciamo, e poi pian piano nel tempo si è un po' adeguato a quella idea di lui che la società si è fatta, è diventato un po' lo scrittore intellettuale interpellato su ogni questione di pubblico interesse, e si è un po' nascosto in questa figura più leggendaria che attiva, come è successo a tantissimi. Il ragazzo nasce più tardi, in realtà l'idea lì era semplicemente raccontiamo la vita del professor Salomè e di questa crisi, perché lui deve scrivere un libro del 68, il libro definitivo dei 50 anni, e non ce la fa, non riesce ad avere più una parola da tirar fuori, per il fatto che lui non le conosce più le parole con cui si parla di quelle cose lì. Conosce le parole di 50 anni prima, e accorgersene è quello che lo porta alla crisi progressiva che vive all'interno del romanzo. Poi finisce l'estate, arriva ottobre all'università e succede questo. Insieme ad alcuni compagni all'università mi trovo a tutta l'università italiana, da Trento fino alla Sicilia, mi trovo coinvolto in quello che è il più grande movimento studentesco del 2000, dalla Pantera in poi, che è stato l'Onda, poco poco raccontata in realtà. E quella a me sembrava una cosa straordinaria, cioè stare all'interno finalmente delle cose. Quindi io ho smesso di scrivere romanzo, non mi serviva più. E ho iniziato a raccontare quello che succedeva all'interno dell'Onda per fotogrammi. Io ero uno scrittore, non riuscivo a stare completamente dentro, ma servivo appena un poco fuori per osservare. E quindi per fotogrammi io ho iniziato a dare un po' conto di quello che avveniva lì. Solo dopo, quando ho concluso l'esperienza dell'Onda, ho riavuto in mano le pagine di prima e le pagine di dopo, ho capito che in realtà erano il retto e il verso dello stesso romanzo. Per risponderti, quanto rosso resta nel ragazzo? Beh, in qualche modo con un gioco di sovrapposizione, un po' come quello che usano gli architetti, no? Con il lucido, un po' il diario del ragazzo somiglia tanto alle parole che il professore non sa più dire 50 anni dopo. Prima di ridare la parola ad Andrea, una piccola domanda sul senso delle parole, sul ruolo delle parole, sulla precisione delle parole. Perché secondo me quello che ultimamente stiamo spesso affrontando, lo stiamo anche affrontando all'interno della nostra trasmissione, all'interno di Tabula Rasa, abbiamo fatto tutta una puntata che riguardava cancel culture, abbiamo proprio qui con il mio socio, con Tiziana, insomma, abbiamo presentato anche il fumetto di Michele Rec, Zero Calcare, proprio sulla cancel culture. Quindi c'è un'importanza delle parole, parole che si dicono, parole che descrivono, parole di ideologia e di identità. E riflettevo appunto mentre parlavi su questo senso della parola e della narrazione, su quanto precisa possa essere una parola, su quanto una parola possa raccontare un'identità, possa raccontare un'esistenza, e su quanto in certi casi anche la letteratura invece abbia una parola che, tu dicevi, era un passo indietro rispetto all'azione. No, c'è una bellissima poesia di Eri De Luca dove racconta che la parola, dobbiamo rapportarci alla parola come il lanciatore di coltelli si deve rapportare al bersaglio, cioè tu la devi tirare la parola e non devi prendere ovviamente il corpo, devi essere il più vicino possibile al corpo, quindi c'è questo concetto di precisione e indeterminatezza quando lanci la parola. E volevo chiederti appunto come eri riuscito a dare due parole differenti, due lingue differenti, perché effettivamente il tuo romanzo ci sono tra la narrazione di Luca Salomè e quella del ragazzo, mentre quella del ragazzo ce l'hai già spiegata perché c'è la tua identificazione, ti riportavo a quella lingua là. E dopodiché passo la parola nuovamente ad Andrea dopo il tuo intervento e chiedo alla regia, non abbiamo il quadrante solido che abbiamo negli studi di Radio Onda Rossa, quindi non sappiamo quanto ci manca, ci dicono che ci sono ancora 10 minuti, va bene. Allora, mi hai fatto una domanda complessa perché ha tante tante risposte, allora ci provo un po'. Io parto dal presupposto che la letteratura sia una delle più alte forme di resistenza identitaria. Perché lo dico? Non lo dico soltanto, potrei farmi forte di un pensiero di un Nobel, quando Josip Brodsky prende il Nobel nel 1987 a Stoccolma, il Nobel per la letteratura, finalmente fa un discorso meraviglioso che fa tirare un sospiro di sollievo a tutti quelli come noi, cioè lui dimostra in poche battute come in fondo l'estetica sia la madre dell'etica, non il contrario. E quindi, in fondo, io, da lettore di libri, da scrittore, da uno so, appassionato, mi sono in qualche modo fidato delle parole di Brodsky, trovate poi anni dopo, credo, nell'87, avevo 6 anni e pensavo ad altro, giusto, alla Roma, ecco, probabilmente era l'unica cosa a cui pensavo al momento. Per quanto riguarda, quindi, invece, la risposta è già un po' più mia. Io sono convinto di questa cosa, che la letteratura sia un'altissima forma di resistenza, per il fatto che sul piano identitario qualunque popolo si è definito attraverso la propria lingua. No, è successo forse l'anno scorso, proprio appunto prima citavo il calcio e ci viene ogni tanto comodo, no? Succede che un calciatore uruguaiano di nome Suarez, famosissimo, viene più o meno acquistato dalla Juventus in Italia. Oh, Suarez ha una... Sì, è quello del morso, bravo. Suarez ha una moglie italiana, che per il nostro ordinamento significa poter dare la cittadinanza italiana al calciatore Suarez, ma il calciatore Suarez, per avere la cittadinanza italiana, deve affrontare un minimo esame di italiano, cioè deve dimostrare di conoscere un tot di parole della nostra lingua e saperle in qualche modo coniugare, saperle utilizzare. Ed è qui No, vabbè, al di là di tutta la polemica che c'è stata su questo, insomma, sui brogli fatti su questa cosa, quello che è interessante è il fatto che sia la lingua, nuovamente, non l'appartenenza familiare, non il matrimonio, quindi un'unione con una donna italiana, no, la lingua risulta essere l'elemento identitario che dà la possibilità di dire io sono anche italiano. Quindi, estremizzando poi, la forma letteraria che io scelgo, ecco, tu citavi prima, non è casuale, quella è una cosa veramente fatta dall'onda, i book block, cioè l'idea che per rispondere alle manganellate che prendevamo ciclicamente in piazza, non dovessimo rispondere attraverso la violenza, ma con dei grandi libri di gomma piuma. E lì ognuno di noi ha scelto il libro che più rappresentava la propria forma di resistenza culturale. E dai Dostoevsky ai Proust a Petronio, il Satirico di Petronio, mi ricordo, qualcuno aveva tirato fuori anche delle cose di letteratura antica, siamo andati in piazza con questi grandi blocchi di gomma piuma appunto per prendere ste botte, e non potevano credere che noi fossimo in quella forma di resistenza passiva, però protetti dalla letteratura. Nel libro poi me ne occupo chiedendo un'altra cosa in più, no? Ecco, quello che noi abbiamo fatto appunto 10 anni, ormai un po' più di 10 anni fa, vabbè, ma lasciamo perdere, che abbiamo fatto nel 2008-2009, cioè inventarci questa cosa qui, andava a prendere libri che venivano dalla storia, erano libri classici, più o meno antichi, ma comunque dei classici. Quindi l'idea è, chissà quale libro avremmo scelto della nostra letteratura contemporanea per proteggerci da una manganellata, da uno sputo e da una carica della polizia. Io penso che facciamo questo e poi andiamo tutti a ascoltare Falena. E, no, allora, al di là del... Sì, è vero, la lingua, come dicevamo prima, è molto, molto alta in alcuni casi, quando parla il professor Salomè, e in tutto il romanzo è molto alta, e la prosa ci ha messo tanto, secondo me, a scriverlo, appunto nel 2008, ma anche proprio a scriverlo bene, o almeno in questa lingua. E secondo me anche nel modo in cui racconti alcune scene mi ha ricordato, sempre per parlare di 68, di un libro che era stato scritto in quel periodo lì, o comunque è figlio di quel periodo lì, che è quello di Elsa Morant, Il mondo salvato dai ragazzini, che è una via di mezzo tra un'opera teatrale, o comunque hanno provato a farne tante versioni di quel testo lì, che è un testo molto complesso, talmente alto che appunto si prestava a tante cose, anche a una rappresentazione radiofonica e tante cose, come secondo me alcune scene di questo del tuo romanzo è tante cose, anche perché è figlio del teatro, del quale tu sei pure critico, quindi però in particolare ci sono tanti riferimenti letterari, e in particolare ce n'è uno di Nanni Balestrini, che è in esergo, quello, insomma, vogliamo tutto, lo vogliamo adesso, eccetera, però a un certo punto cerco di non rovinartelo, però insomma tu dici, ci aveva passato anni in quei corridoi e si era convinto anche lui che fosse necessario seguire l'onda inarrestabile della comunicazione, a patto però che ci fosse qualcosa da comunicare. In quel caso mi è venuto in mente proprio Nanni Balestrini quando dice, poiché tutto comunica, perché comunicare? Ecco, perché comunicare? Visto che te sei pure un professore, un maestro. Ho fatto professore, vabbè. È un mestiere. È interessante la domanda. Intanto partirei da una possibile ramificazione di questa parola, no? Fondamentalmente comunicare a me interessa poco nel momento in cui comunicare è diventato un po' il nostro unico modo di far vedere che esistono le cose, no? E forse a me interessa esprimere, che non è esattamente la stessa cosa. Perché esprimere conta sulla possibilità che sia esattamente l'individuo che prende delle cose da dentro se stesso e le porta fuori. Comunicare, si può comunicare qualcosa in maniera superficiale, qualcosa da fuori, qualcosa di altri, che non t'appartiene realmente, che però magari appunto è giusto sia comunicato. Quindi partirei da questa definizione. perché comunicare? Ma sai, Balestrini lo scrive in un momento in cui la comunicazione non è diventata così imperante come in questo periodo storico, che è finita a fagocitare se stessa, quindi l'aveva semplicemente anticipato con un'analisi molto, molto lucida. E dal mio punto di vista il libro in realtà non intende comunicare, se non appunto questa... insomma, direi quasi in qualche modo questo, questa fatica, questa sofferenza del non autore, secondo me, perché a tutti gli effetti noi sappiamo che lui è uno scrittore, ma l'unica cosa che non riesce a fare è scrivere un libro. Ecco, quello che mi interessa è esprimere la sua sofferenza, perché attraverso di lui quella è la sofferenza mia, la sofferenza della mia generazione. Quello che è curioso è che io, cominciando a scrivere questo libro nel 2008, avevo un'età da post studente universitario, nel senso che ci ho messo un po', ecco. Però, finito di scrivere nel 2018, io mi ero un po' trasformato, ero diventato a tutti gli effetti un adulto, quindi non ero più il post ragazzo che ero prima. E in qualche modo è come se io avessi avuto una sorta di pietà per quel personaggio nel tempo. Quindi, ecco, se volevo esprimere quella fatica, quella sofferenza, quello che sono finito per comunicare è anche lo stato di pietà a cui io ero giunto. Tutto sommato, ecco, le due cose possono anche tranquillamente coesistere. Secondo me non bisogna smettere di comunicare, perché lasciare la comunicazione in mano al vuoto, rendere vuota la comunicazione, sì, arriva al perché comunicare, ma ci impedisce di conoscere. Se siamo in chiusura, chiedo alla regia dei cenni, però c'è la domanda di rito che prima però non abbiamo fatto a Paola, perché a Tabula Rasa generalmente alla fine di ogni chiacchierata, di ogni intervista, chiediamo all'autore o all'autrice un libro da consigliare, o un libro che non è il libro per forza della vita, ma è anche un libro che stai leggendo tu, che però ti senti di consigliare. Sai che è la domanda più difficile della storia. No, nel senso che paradossalmente è la più facile, però poi ti lascia un po' di difficoltà, perché c'è tutto un confuso mondo di libri letti da leggere, leggendo in corso di lettura, e quindi è complicato. Però sicuramente, ecco, no, posso risponderti in qualche modo anche ancora tornando al libro, perché questo. C'è a un certo punto un dialogo tra il professor Salomè e il suo amico dell'epoca, che richiama un po' per cercare di afferrare quei concetti che gli sono andati perduti, ed è un professore di storia al liceo, lui è un professore di storia contemporanea all'università, e questo suo amico Bartolomeo Zerilli è il suo amico dell'epoca ed è professore di storia al liceo. Il professore di storia al liceo, proprio convinto da questa idea di Brodsky, lui la mette in atto, e agli studenti dell'ultimo anno lui dà un libro che non è, dà come libro di testo un libro che non c'entra niente con la storia, non c'entra niente con i libri scolastici, ma è Don Quixote di Cervantes, perché aveva fatto un viaggio, era andato a fare un viaggio a Cuba, era andato al mausoleo di Santa Clara, era andato, in realtà ci sono andato io, quindi in qualche modo io so, ho passato attraverso il personaggio, quello che è la mia esperienza, e girando attraverso il mausoleo di Santa Clara, che è meraviglioso, e si trova, sai, sapete, nei musei ci stanno le teche di vetro con sotto, no, le reliquie dei santi. In questo caso la reliquia del santo Ernesto Che Guevara, a parte le varie fotografie, è a un certo punto una teca con dei volumi rossi, e c'è scritto libri letti in gioventù da Ernesto Che Guevara. Vabbè, ci stanno le poesie di Machado. Quale ispanofono non ha le poesie di Machado nelle sue età? Ci sta, no? Salgari, e quindi qualche libro un po' per ragazzi, e a un certo punto c'è il Don Quixote di Cervantes, che uno si fa due conti e dice, ma quindi due pazzi visionari, Don Quixote e Sancho Panza, che attraversano un territorio da punto A a punto B, combattendo contro il potere dei mulini a vento, un potere soverchiante, un potere che non capiscono neanche dove sta, ma loro combattono e basta. Quanto somiglia alla rivoluzione di Cuba? E quindi io ti direi che Don Quixote. Buonasera, rieccoci, sediamoci chi vuole sedersi, ricomincia la trasmissione Tabula Rasa con l'ultimo dei nostri eventi della serata e sarà non una, diciamo, reale presentazione di un libro, ma è la presentazione di un progetto, sì, che è anche una pubblicazione, un libretto. È anche un libretto e il progetto si chiama Falene e ve ne parlerà e introdurrà tutto il progetto la nostra adorata Olivia. Allora, posto che l'importanza del compost è quella di cercare di tornare a un circolo virtuoso e non vizioso in cui ci sia l'ossigeno che rende vitali e dinamici i movimenti che fortunatamente almeno quelli la vita ci dovrebbe regalare, quindi ecco, di non separare ma di fare una rete e di cercare anche di essere trasversali, lavorare su più livelli, sperimentare, anche se sono tutte parole che poi a volte rischiano di diventare anche di plastica, ecco, e cosa che ovviamente non rispetterebbe il principio del compost. E io mi trovo qui, sono molto emozionata, con Silvia De Leonora, che sono tra le due autrici di Falena, che è un'opera lirica, sci-fi, sperimentale, elettronica. È un progetto con un libretto, questo, che potete consultare a Fantastico Bookshop, dove troverete Serena e Gabriele. Ah no, Serena sta qua. Vabbè, comunque... E niente, insomma, c'è questo fantastico libretto illustrato in cui ci sono illustrato da Natalie Cohen, che è un'illustratrice che viene dall'underground, che ha fatto un sacco di cose, oltretutto ha pubblicato con Leonora una storia sul Corriere della Sera, poi magari ce ne parlerai meglio tu. E quindi in questa Falena noi la conosciamo, noi comuni mortali la conosciamo come l'epidottero, poverina, oltretutto abbastanza emarginata, nel senso che è una sorta di farfalla notturna, scura, e a livello simbolico si è presa un sacco di... un ruolo terribile, perché appunto era vista anche come incarnazione del male, del demonio, eccetera eccetera, ma questo non so se non c'entra nulla, però ecco, per inquadrare un po' l'immagine comune, anche se poi la falena è un importante impollinatore, perché non impollinano solo le api, assolutamente impollinano anche le mosche, quindi insomma, come al solito torniamo al compost, perché le mosche stanno sulla merda. E quindi diciamo che tutto torna. E dopo questa fantastica introduzione, volevo sapere appunto il momento di generazione, questi più livelli che attraversate, e che cos'è Falena. Buonasera a tutti. Aspetta, dove mettere? Ok. Aspetta, allora. No, rimettiamo prima la traccia. No. Dopo, ok. Ok. Grazie, buonasera a tutti. Questo progetto appunto nasce come una storia appunto di fantascienza. Io però sono una cantante lirica, per cui a un certo punto questa storia, che doveva diventare un fumetto insieme a Natalie Cohen, perché noi appunto l'anno prima abbiamo fatto questa storia sul Corriere della Sera di fantascienza, tra l'altro una storia di isolamento, quindi il fatto che insomma, dopo un anno è uscito il Covid, abbiamo pensato o portiamo sfiga o abbiamo in qualche modo, non so, captato un'energia. E questa storia però, a un certo punto io ho pensato che sarebbe stato bello fare una colonna sonora di questo fumetto. E quindi era il periodo in cui c'era appunto la sonda Cassini, che aveva captato questo tremore, che era appunto l'interazione tra il nucleo di Saturno e i suoi anelli, e quindi dalla NASA io ho sentito questo suono e ho improvvisato sopra una voce lirica, e ho pensato che questa prima traccia, che poi è diventata il prologo di quest'opera lirica, sarebbe stato bello come colonna sonora di questo fumetto. Dopodiché il fumetto... Vogliamo sentirla? Sì, sentiamo questa prima traccia. Quindi da questa traccia Questa traccia è stata sentita da questa compositrice cinese di musica contemporanea che si chiama Zhuwei Wang, e lei ha detto: ah, mi piacerebbe leggere questa storia, collaborare con te, e quindi abbiamo cominciato a così a musicare queste arie, cioè la storia sono diventate delle arie, una storia cantata. E Natalie Cohen a un certo punto ha cominciato a dedicarsi invece al libretto e non più al fumetto, ha fatto delle illustrazioni e la grafica, che è diventata, diciamo, la veste di quest'opera, e abbiamo chiamato Okapi, che è questo DJ, insomma, di musica elettronica, che ha collaborato con me, con Zhuwei Wang e poi con un altro musicista che è Cristiano Riccardi. E quindi ci sono stati vari livelli di intreccio, perché c'è stato, diciamo, un accesso al fumetto, alla musica contemporanea, alla musica elettronica. Quindi in qualche modo io ho unito insieme tutti i miei interessi. In qualche modo è uscito fuori questo progetto che unisce vari aspetti che per me sono vitali, sono importanti, e al tempo stesso mi hanno permesso di rendere la musica, diciamo, l'opera lirica, che è una cosa che in qualche modo anche da tutti viene considerata come un mondo elitario, come qualcosa di escludente, no? Io stessa non vengo da una famiglia di musicisti, io ho iniziato a cantare lirica perché una cantante lirica mi ha cantato a un metro e ho detto: oh mio Dio, cioè io voglio cantare così, voglio sentire questa potenza di suono, voglio riuscire a generare questo suono, no? E diciamo, fare un'opera lirica contemporanea mi è sembrato veramente anche in qualche modo riscoprire un'autenticità di come componevano nel Settecento. Mozart, quando componeva, i cantanti provavano le parti, i cantanti, se non riuscivano a cantare quella parte, Mozart la cambiava. Adesso non è così. Un'opera dell'Ottocento viene cantata nello stesso modo, ovviamente gli interpreti daranno il massimo, però viene cantata nello stesso modo da tutti. Anzi, se fai qualcosa di diverso, c'è lo spartito. Quella non era una biscroma, era una croma. E secondo me questa cosa, sì, da un lato è importante, perché è ovvio che è importante far sì che quella cosa sia, diciamo, corrispondente alla volontà dell'autore, ma dall'altro canto è come se in qualche modo togliesse la parte, diciamo, che per me è vitale, che è una costruzione, no? E anche una, sì, chiamiamola sperimentazione se vogliamo, no? E Falana è questo, è costruire insieme, e per me è veramente emozionante questa cosa, perché io sento che c'è come una unione di diversi aspetti e che tra di noi c'è un confronto, anche un conflitto, no? Perché le cose avvengono anche attraverso il conflitto, ma che è vitale per me, che non è semplicemente una ripetizione, anche perché per quanto possa essere bellissima e io amo l'opera, ma quando io vedo 100 volte una Traviata, 200 volte una Traviata, io stessa penso: quell'acuto non è venuto così bene, no? E io stessa penso che in qualche modo ho tradito il mio ascolto, no? Quindi ho tradito anche la volontà del musicista, perché io, se io dovessi comporre qualcosa, non vorrei che qualcuno stesse lì con lo spartito a guardare se tutte le semicrome sono giuste, no? Io vorrei che quella persona si emozionasse, cioè che quella cosa ti parlasse. E quindi questo progetto è nato veramente con la volontà di creare qualcosa che unisse non solo i mondi, ma anche le persone, anche le teste, e che partisse dal basso, perché poi quando io dico stiamo facendo un'opera lirica, la gente ci guarda e dice: oddio, voi siete pazzi, ma ce l'avete i fondi, ce l'avete questo, no? Come se ci dovesse essere sempre, cioè noi addirittura abbiamo aspettato che la compositrice cinese partorisse due figli prima di darci la quintaria, e secondo me questa cosa ha un valore che non è sicuramente una cosa che il mercato, come dire, della musica accetterebbe, no? Però per noi è importante, perché noi volevamo quella persona, volevamo che quella persona collaborasse con noi. In tutto questo io ho scritto la storia, ho cantato, ho cercato di fare il massimo, dopodiché era talmente grande il lavoro ed era talmente una nube che mia sorella Silvia Susanna, che è un architetto, mi ha aiutato, perché io ho la fortuna che mia sorella ha diciamo la stessa passione per creare qualcosa di significativo e bello, mi viene da dirlo così, e quindi lei mi ha aiutato a far sì che questa cosa diventasse una struttura, perché lei è un architetto, e quindi diciamo, se può introdurla. Sì, appunto, dalle tue parole volevo proprio parlare di questo e chiedere a Silvia in che modo, anche attraverso appunto la creazione di questo libretto, avete, cioè hai messo, hai anche coordinato, no, i vari elementi, e hai visto una struttura all'interno di questo progetto, il discorso più ampio che può essere anche può essere quello legato all'architettura in generale, che ha visto poi una serie di componenti, di elementi di tipo diverso che hanno contribuito in modo di, con linguaggi diversi, quelli illustrati, musicali, insomma, di composizione. E poi ci sentiamo un pezzettino della un'altra aria che è molto bella. Allora, intanto grazie a tutte e tutti dell'invito. Allora, la premessa è che secondo me questo progetto fa incazzare un po' tutti, perché mette insieme talmente tante cose che ognuno che è disciplinare su uno dei appunto delle discipline che mette insieme dice no vabbè ma questo non è un fumetto, no vabbè ma questa non è un'opera lirica, no vabbè ma questa è anche elettronica, più io ci metto sopra che dico no, per me questo è un progetto di architettura, quindi lì proprio c'è l'universo mondo degli architetti, comincia proprio tipo a sentirsi male, perché comunque io dico una blasfemia. Tutti gli architetti, cioè, non riescono a immaginare altro che sia fuori appunto da muri, illuminazione, piante. Io invece, nel senso, la mia lotta contro appunto l'architettura disciplinare è dire che quest'opera, questo libretto, in realtà è un'architettura molto complessa, che si basa su un processo collaborativo complicatissimo, perché comunque immaginate che, poi fa ridere perché sembra che quando raccontiamo questa storia sembra compositrice cinese che però abita a Miami, sembra la canzone del Battiato, no? E dici vabbè, no, è così. Quindi ogni volta ci sono questi fusi orari, lei che però comunque è bellissima, c'ha questi figli così. Quindi la pratica di attivare questo progetto è molto complessa e si basa su degli equilibri molto molto precari, che però a noi ci piacciono tantissimo, perché se non siamo precari non ce la facciamo. Che per me è stata una grande sfida, perché comunque appunto Eleonora è vulcanica, comincia, se ci collabori insieme capisci quanto a un certo punto dici te ne sei andata là e noi stiamo qua. E, per cui a un certo punto abbiamo proprio fatto le piante, le sezioni e i prospetti di questo libretto, cioè ok, che cosa dobbiamo fare oggi, in che modo questa storia si struttura nel tempo, chi ci lavora, quando ci lavora e come ci lavora. Per cui anche l'idea di fare il libretto in realtà è stato un momento che era in qualche modo, in qualche forma catartico per tutti noi, perché a un certo punto il fumetto c'era ancora, l'opera si stava costruendo, però comunque ognuno di noi voleva vedere qualcosa, e di certo diciamo fare il libretto, quindi anche semplicemente sì, lo vediamo nel PDF così, a un certo punto ho detto no, senti, stampiamolo, almeno ce lo vediamo così, ce lo sfogliamo, capiamo tutte le cose che sono sbagliate, cosa che fa parte proprio del procedimento, della mia esperienza in architettura, in cui se non fai modelli plastici, cominci a vedere i test, le cose, non ti sembra che quella cosa sia reale. Effettivamente poi questa cosa comunque, cioè, ognuno di noi è stato, ah ok, ma allora è bellissimo, cioè dai, è partito questo mega fomento, in cui appunto, senza come soldi. Dico prima, cioè fa incazzare tutti, perché comunque cioè, il mondo accademico di Eleonora dice ma che è? Però comunque ci sono quelli che sono più sperimentali che dicono ma sembra interessante, e il mondo dell'architettura ti dice vabbè sei una psicopatica. La cosa bella è che comunque l'abbiamo anche appunto tradotto in inglese, quindi c'è stato un lavoro di editing infinito, che però finalmente anche Jue, che anche questo era molto bello, la prima volta gli raccontiamo la storia e Jue dice ma mi sembra bellissima così, ho detto forse te la dobbiamo proprio tradurre, e fa ma no, non avevo... cioè lei si emozionava tantissimo. La storia, tra l'altro, vi dico proprio due cose. È una coppia di giovani, diciamo, emarginati, ai margini proprio della società, che cercano, diciamo, una rivalsa sociale attraverso questo viaggio verso questo pianeta che si chiama Falena, dove una religione scientifica promette, diciamo, la pace. E alla fine del viaggio, quando lui arriverà sul pianeta, si renderà conto che... c'era la classica sola. Però diciamo che questo viaggio comunque è molto costoso, lui quindi deve chiedere aiuto alla madre, tant'è che quando l'abbiamo raccontato al regista fa classica situazione in cui tipo i giovani non hanno una lira e devono chiedere i soldi ai genitori. Io ci avevo pensato. E infatti ci ha fatto morire da ridere. Quindi niente, in realtà... questo è un lavoro, cioè noi abbiamo iniziato e siamo, diciamo, a buon punto, però c'è ancora molto lavoro da fare, non ci fermeremo. Se vogliamo sentire questo pezzo, poi non so, vuoi dire qualcosa? Sì. Sì, sentiamo il pezzo. Scusate, ma i tempi... Ave Maria, ed è un Ave Maria ovviamente con un testo originale, nel senso originale, nel senso che hai scritto tu. E mi piacerebbe che dicessi due parole, perché ci sono dei passaggi, insomma, che non sono, boh, forse sì, un'umanità limitata e peccatrice, ma c'è appunto, mantieni le vibrazioni, la vibrazione dei pianeti, e noi perseviamo l'attrazione per l'ignoto. Quindi non lo so, io trovo tutto quest'opera estremamente potente, e quindi mi piacerebbe che contestualizzassi, visto che abbiamo anche parlato un po' della trama, di cui non vogliamo anticipare perché poi ci sono mutazioni, gravidanze, parti, conflitti, cose che succedono inaspettate, eccetera eccetera, e ovviamente il lettore, l'ascoltatore deve avere anche quell'elemento di sorpresa che è fondamentale, nel non tipo chi è stato l'assassino, però una scoperta graduale, è anche la bellezza della fruizione di ogni opera. e mi piacerebbe che dicessi qualcosa su questo, quest'area, o comunque qualcosa che ti va di dire, visto che purtroppo stiamo anche con i tempi stretti. Questa Ave Maria mi piaceva perché io sono abituata appunto a cantare Ave Maria di, insomma, così. È strano scrivere un'Ave Maria adesso, no? Soprattutto per me che sono, diciamo, agnostica, e quindi, non so, nella storia questa Ave Maria ha senso perché è come se fosse, diciamo, una evoluzione della religione, no? E quindi c'è questa attrazione per l'ignoto che viene, diciamo, invocata, no? Ed è l'attrazione per l'ignoto è quello che muove anche i nostri intenti nel produrre questa cosa, cioè nell'essere tipo così trasportati oltre. Una fiducia. Io non sono religiosa, ma vivo religiosamente, nel senso vivo con una fiducia in qualcosa che non esiste e che stiamo creando insieme. E non so neanche perché, non lo so, però sento questa attrazione verso questo ignoto. Quindi questo è tanto di dire. No, e la cosa bella è che l'ignoto è qualcosa che mette paura, non puoi controllare, spesso spaventa e la reazione immediata è quella di bloccare, e quindi sempre per tornare al discorso iniziale, no? Dell'asfittico e dell'organico e del vitale, di tutto ciò che si muove, il tendere verso, anche quando non conosci qualcosa, è quello che poi ci permette di vivere in un certo modo e di creare nel senso appunto proprio come processo creativo inteso in senso nobile, non le solite, insomma, come, insomma, ci siamo capiti, credo. Quindi ecco, questa cosa qui, per questo mi piaceva estremamente questo passaggio. Ovviamente poi tu avrai tutti i tuoi anche rimandi di formazione, insomma, a cui hai fatto riferimento, però ecco, per me l'ignoto è una dimensione fondamentale, a parte il fatto che sono anch'io molto appassionata di fantascienza, però ecco, è una dimensione per la vita, è per me necessaria. Invece adesso, attualmente o comunque in generale, c'è un movimento tendenzialmente che è estremamente l'opposto, cioè che è quello di fermare tutto ciò che non puoi prevedere, ma la vita non è controllabile, quindi ci dobbiamo arrendere a questa cosa, e noi non possiamo controllare la vita. Tu, se la vogliamo controllare, poi arriviamo appunto a rendere sterile, asfittico, asettico, e che non è vita e non è un prodotto reale, è solo un'illusione. Quindi tutto questo è molto, per me è molto, cioè mi risuona tantissimo. Quindi volevo sapere se Silvia voleva aggiungere qualcosa, e poi concludiamo, se non volete aggiungere niente, con l'ultimo pezzetto in cui facciamo stirare le zampette. Facciamo stirare le zampette, non vuoi aggiungere nulla? Ok. Sì, dai. Vabbè, che noi abbiamo fatto, diciamo, col fatto che con il Covid tutti i teatri erano chiusi, era impossibile ad accedere a qualsiasi fondo alla fine, e con veramente, lo so, la forza delle unghie, abbiamo usato lo studio, questo studio che sta appunto vicino alla Nomentana, che si chiama Span Agency, per fare un concerto lì dentro. E quindi abbiamo detto, oddio, come facciamo a fare un concerto in un posto che è 20 metri quadri? Ok, allora facciamo così, che questo 15, facciamo una scenografia dentro questo spazio, canto dentro questo spazio, c'è una vetrina per cui non c'è nessun problema con il Covid, i contagi, le persone assisteranno a quest'opera come in un acquario, dalla strada. E quindi abbiamo fatto anche questo per, come dire, arrivare, lanciare veramente il cuore oltre l'ostacolo. E poi voglio dire una cosa che sembrerà assurdo, ma cioè che la nostra volontà è quella di arrivare fino al fondo di questa cosa, e per arrivare al fondo di questa cosa siamo disposti a perdere tutto, anche noi stessi, non so, cioè questa cosa è talmente diventata più grande di noi che alla fine noi la stiamo così inseguendo come se fosse diventata un'entità oltre noi, e quindi noi siamo lì a correre dietro a questa cosa. Sì, no, volevo solo aggiungere una cosa che cioè è nato questo gruppo, si chiama The Cicis. Che è la traduzione delle Cicis, che è un gruppo femminino ma con dei satelliti maschili usati come bestie da soma, esatto, con cui stiamo lavorando e con cui abbiamo fatto, diciamo, la prima, diciamo, grazie al gruppo dei Cicis abbiamo fatto la prima di Falena a Span, poi abbiamo fatto Vertical Tales di Okapi, quindi così per dare anche un po' di spazio a uno dei compositori di Falena, e il terzo Holiday Inn, venerdì 25, siete tutti invitati, via di Dolfino Venuti 33, no? Alle 7:30, e, no? Sì, okay. Super, grazie mille, grazie. E grazie, buonasera, quindi grazie di essere stati qui con noi, qui i nostri colleghi di Tabula Rasa ci hanno abbandonato qui a me Olivia, e quindi vi salutiamo noi e vi diamo l'appuntamento a domani, saremo di nuovo qui, domani avremo Mario Desiati che presenterà il suo libro Spatriati, pubblicato da Einaudi, poi avremo Roberto Grossi con Cassa Dritta, pubblicato da Coconino, e infine termineremo con un incontro, diciamo, più ampio su un discorso appunto sul femminile e fantastico, una cosa un po' che parla con quello che abbiamo detto stasera, però dal punto di vista letterario e cinematografico, insieme a Veronica Raimo e Francesca Manieri, e quindi vi aspettiamo domani, grazie e buona serata.